Yeah, you're squealing, right? I'm gonna get here and walk you tidy right with your head up. Right. Hola, hola. C'è qualcuno in ascolto? Hola, CQ canale 10, c'è qualcuno? CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Vabbè, dici che sta Hola, hola. C'è qualcuno qua? Hola. Hola. C'è qualcuno qua? CQ, canale 10, c'è qualcuno qua? Hola. CQ 10, c'è qualcuno all'ascolto? Ci sono io, perché? Ui, buonasera. Ciao Natalia. Non mi sta funzionando il rosmetro, che strano. Se voglio risistisci. E boh, a me lo dice. La radio come... Già. Troppo forte. Ah, già va bene. E ok, da, l'ho regalata questa qui. Ho trovato la bicina per regolarlo. Per me va bene, però non lo so, io ho abbassato il volume, tranquillo, va bene. Ehi, che non sia troppo amplificata, mi che dà fastidio. Volevo sapere quello. No, no, va bene. Aspetta, attimi un secondo. Ah, non c'è niente allo smetto, boh. E allora perché non funziona? Allora, con questo apparecchio funziona, adesso ho cambiato apparecchio, no? Con l'altro no, non capisco perché. Ma non è che gli avrai cambiato l'ordine degli spezzoni, no? No, non gli ho toccato nulla, Natali, è sempre lui, sempre da quando c'è la stazione, sempre così. Io tolgo praticamente lo spezzone da, un apparecchio e lo metto nel lato, tutto lì, dovrebbe funzionare con tutti. Non capisco perché. Ma se con questo apparecchio sta funzionando. Aspetta un attimo. Tutte le scale fa, la stavo provando. Ok, anda bene Meda. Mi spengo la luce così sto meglio, va. Poi, Natali, c'ho tutto a dolore di nuovo, sono di nuovo, sempre. Lo so, non è che ti passano, se non ti si sbrigano a chiamarci questi qui, boh, io non lo so come la pensano. Io ho pensato oggi è sabato, magari c'è più gente anche da presto, invece la diocesi non verrà nessuno, c'era solo un banda laterale, stavo controllando il banda laterale, già andava, già c'era qualcuno, ma era gente di fuoco. Ma arrivavano bassi, arrivavano. Se no li avrei chiamati. No, qua li sentivo bene, sentivo a volte e mezzo, no? Ma vabbè, poco fa li sentivo bassi, magari si sta alzando la propagazione. Può darsi perché viene e va la propagazione, capito? Con questo come mi ascolti, Natali, bene? Meraviglioso. meravigliosamente bene ti ascolto con questo e anche con l'altro. Schiava gara. E infatti non è immobiliare, scappa di chiunque. Un casino qua, è un casino. Quando ti prende questa passione sei sempre con pare. Lo so. Il destino questo è circuito stesso. Veramente sta andando in magazzino a prendere. E che vuoi che te dica? Soldi. Ci vogliono. È una droga, è una droga. Allora, per forza mi dice che sono cuocuomane e coso. Luca. Quanto manca all'alba? Eh già, non si sa. Perché l'hanno fatto slittare l'esame, non si sa la data. Ieri sera è venuto a trovarci Roberto. È venuto per dirci come si svolge l'esame. Così siete già pronti a sapere come si fa, dai. È tutto su internet, no? È tutto in videoconferenza. E uno alla volta. Ti danno l'orario, una password, dice che ti danno e si collegano, capito? Vedo casino. E meglio che dura di meno, durerà una decina di minuti, tre presentazioni, 4-5 domande che ti fanno, è meglio, anche là durava zincuri, 4 zincuri, erano 60 domande, poi c'era il compito da svolgere, in presenza è molto più difficile. Va bene Natali, ma con le 4-5 domande che ti fanno devi aver studiato, perché se ti fanno quella che tu non hai studiato ti butti. Vabbè, lo so, bisogna studiare, è quello il problema. A meno che uno sappia giusto le domande che ti fanno, allora si studia quelle. Ma non è così, purtroppo. Sono 5 o 6 e ognuno ti fa la domanda sua, in 5 dovrebbe essere, 5 domande sono. C'è uno della Marina, o ingegneri vari, e ognuno ti fa una domanda e tu devi rispondere. Ah, che roba della Marina? E c'è sempre uno della Marina lì. La commissione, io non lo sapevo questo, vedi? C'è sempre uno della Marina. Anche se hanno tolto l'esame di CW, quello della Marina c'è sempre, magari ti farà una domanda di elettronica oppure di codice Q, che quelli lo conoscono bene, il codice fonetico, magari quello ti fa proprio quelle le domande. Va bene, quando è così che si fa in fretta, se uno sa se ne sbaratta subito. Infatti studiare bisogna, il problema non è tanto di studiare, è che il programma di studio è molto vasto, capito? È molto vasto e non è così, ti viene in salita anche se uno è diplomato. Un laureato gli viene in salita perché è troppo vasto il programma di studio. Deve studiare tutte le normative, elettronica, elettrotecnica, il codice Q ti deve studiare a memoria, il codice fonetico, sono cose, tutte cose che devi sapere. Vabbè certo, la cosa bisogna saperla, se no anche se ti fanno poche domande non si risponde, se ti capita quella che non hai studiato, è un casino. Vabbè, oiga. Sto pregando qua che mi chiamino subito a chilogrammo subito. Lo so già, lo so che è una cosa brutta, avere il dolore fisso è una cosa allucinante, già lo so. Cerca di pazientare, magari che questi antidolorifici non ti fanno nulla, non ti fanno, sono dei palliativi. Sì, qualcosa te la fanno, ti fanno male al fegato. Vedi, quello è. Sono dei palliativi praticamente, o durano poco e subito ti viene il dolore quando passa l'effetto. Perché tu ce l'hai sempre fisso il dolore, quello è il brutto. Sempre fisso, poi aumenta. Guarda. fisso il dolore non passa mai, almeno passasse un attimo, no, non passa mai. Infatti se passava il dolore era meglio, magari uno non cammina per non venire il dolore, sta nella poltrona però non ha dolore, invece tu qui l'hai sempre visti e quello è già il brutto. E mi ha telefonato quello di Valedoria che ho conosciuto là, che lui l'hanno operato, ma non va riuscito, abbiamo fatto insieme il pre-ricovero. E mi ha telefonato e mi ha detto martedì mi dimettono. Gianni dice sono troppo contento, mi hanno fatto un lavoro allucinante. Addirittura ti trasferiscono dopo 3 giorni nel reparto di sopra dove c'è solo fisioterapia, ti fanno di tutto, applicazioni elettriche, c'è la panca, c'è tutto quanto. Dice ti mandano a casa che sei già un grippo. E lavorano bene lì, non è come l'ospedale già. È tutta una cosa diversa, chissà i soldi che si prendono dalla regione, per queste cose qua. E si fanno fare le impegnative, no? Per fare queste cose qua si fanno fare le impegnative. E se la fanno fare prima, il dottore a me non me la voleva fare, perché ha detto la stessa cosa che tu paghi una persona prima che ti faccia il lavoro, no? L'impegnativa si fa poco prima di farti la fisioterapia. E l'ho detto, ma non dipende da me. Loro dice che devono terminare la cartella e vogliono tutta la documentazione fatta. Infatti mettono tutto in cartella loro. È così, anche a me hanno fatto così già. In tutti e due le operazioni. E ci sono dovuto tornare 2 volte, perché una volta non me l'ha voluta fare il dottore, poi la seconda volta quando me l'hanno chiesto loro, ho detto ma scusi, perché non ha portato anche quella dell'impegnativa, non solo quella del ricovero, ma anche quella per fare la fisioterapia? E perché il dottore non me l'ha fatta, certi dottori ragionano così, ma non è così, perché noi dobbiamo terminare le cartelle. Noi consegniamo le cartelle ai dottori, tutto terminato, capito? E allora vogliono tutte le cose in regola lì, se no manco di locca, in chi vuole essere pagati, perché oggi sia così, però almeno lavorano bene, non è come, non è che ti danno accanto di cani come i pirati, lì sono bravissimi. Non bravi, no, bravissimi. Sì, poi vengono da fuori, capito? Sono giovanissimi questi che operano con robot. Sono giovanissimi, avranno 35 anni, 30 anni. Vabbè. Gli ortopedici che c'erano, che ci sono lì, fissi, anche quelli sono bravi. Sono tutti bravi. Che è successo? E c'è dottor Manca e poi la dottoressa Sara. Gli impugnanti ti chiamiano subito, ero manco di rugavi da mezzo e non bevessi più. Poi andiamo in tempia, sto soffrendo la pelle dell'inferno, quindi non riesco a stare fermo, devo stare sempre coricato, se no mi stanco subito, pulisco 2 gambi di uccelli e sono già stanco. Te l'ho detto che sono sceso in campagna ad Antonio l'altro giorno? No, ma avevi detto che te l'ha passata al telefono la moglie, ma non che eri sceso in campagna da lui. Sì, poi ci siamo messi d'accordo, lui è venuto a prendermi e mi ha portato in giro, così poi siamo scesi in campagna da lui, ci ha fatto una casa fenomenale, grandissima, una villa a 2 piani, grande, bella, è veramente bella, con un bel dubbattio, tutto il muretto fatto a secco, fatto bellissimo, è rustico, va bene. Infatti, sono contento. Che almeno si è messo a posto Antonio, che cosa vuoi? Allora, quella campagna era di nonno, poi il nonno l'ha passata al padre, c'erano solo 7 ettari di terreno, di vigna, case di Olivetto, figurati, e se l'hanno fatta tutti e 3 fratelli, capito? Daniele ancora se la sta finendo. Caterina si è restaurato quella casa che c'era, se l'ha restaurata, che l'avevano anche sopraelevata, e lui se l'ha fatta tutta nuovo, capito? Tutto da zero. E ci ha fatto un bel po' di lavoro anche lui, andava, si faceva prestare la ruspa, e si è fatto le fondamenta, si è fatto tutto, dice solo il tetto che ho avuto bisogno dei muratori, e poi l'impianto elettrico, tutti i bagni, tutto quanto ce l'ha fatto lui. E infatti a gettare il tetto non ce la fai da solo, no? Che ci vuole gente quando getti il tetto. Ma alle mani d'oro Antonio almeno ha risparmiato un sacco per tutte, per i bagni, per l'impianto elettrico, cioè quelle cose, Antonio da fa. E poi visto là, se si è fatto gli scavi e tutto, cazzo, ha risparmiato un bel po' di soldi con l'escavatore. Ci se l'ha fatto prestare dalla ditta, capito? Se l'ha fatto prestare, lui metteva gasolio e cose e lo usava, poi i domani l'hanno riportato. Quando ti stavo dicendo, Monica, vai, tu facevo uscendo dal lavoro, già credimi, questo ragazzo non si dava pace. Come uscivo dal lavoro, subito a travagliare in campagna, subito a casa. Non faceva altro, sempre lavorando, si era quando ha avuto la soddisfazione di vedere la casa finita. Poi il terreno dove c'era la vigna, siccome era una vigna vecchia, l'ha buttata quasi tutta giù, ha lasciato una parte solo per casa. E l'altra parte era data a uno che si pianta il grano, un burro, non so cosa si pianta, così gliela tiene già tutta bella arata, il terreno tutto a posto, capito? Non lo deve fare il fuoco. Sì, infatti, in campagna va sempre da fama, ragazzi. Però Rubizzo di Luzzo e di Rubino gli assi rubati. In Catalunione hanno 7 ettari, mi pare, di oliveto. Qui ci avevano 4 ettari di vigna, è un bel grande l'olivetto, loro mettevano le reti, e la mamma mi faceva un bel ridere, quando entravano i cacciatori non ci potevano entrare, e andavano a prendere, a recuperare gli uccelli che li scappavano, no, che cadevano. C'erano le reti, schiacciavano tutti gli olivi, allora la mamma di Antonio si metteva con una bombola, si faceva crepare, per spaventare gli uccelli, dava il colpo alla bombola e gli uccelli scappavano. E infatti, non sta bene a passare dove ci sono roba piantata e roba che potresti guastare, già è vero, che passano dove vogliono i cacciatori, ma la sorte ti fanno casino. Vai via, ragione la mamma di Antonio. Non ci sono più adesso, dal padre, la madre, tutti e due sono morti. Vabbè, comunque c'aveva ragione quella donna, gli rovinavano le olive. Andando a tirare i reti, venivano i cazzingardi e vanno a marcire quelli lì, e ti rovinano anche l'olio che fai con le olive buone. Vabbè, e Antonio il primo periodo aveva sopraelevato la casa dove viveva il nonno e aveva fatto la terrazza grande, d'estate si sdraiava nella sdraia a prendersi il sole e cose. I cacciatori a volte sparavano i gaggiari, i balli di danza. Un giorno cazzo li ha liberati i cani, dice che la batigur. E vabbè, i pallini quando sparano in alto, quando poi ricadono sono freddi, non fanno nulla, capito? Però non è giusto, cazzo, che vadano a rompere le balle in campagna degli altri. Ho capito, Natalia, ma ti sembra giusto a te che tu stai riposando, cazzo, di riparare i ballini là? Non è giusto neanche quello, però non erano pericolosi, diciamo così, perché quando scendono sono già freddi. Sì, quello sì, e poi non c'hanno più potenza, scendono con la potenza che vi dà il fucile, là, dello sparo. Poi vabbè, comunque, adesso non abita più lì, e lì ci abita la sorella, che si è sposata. La sorella sai cosa insegna? Ingegneria a... come si chiama? All'Università di Cagliari, insegna. E figurati. Cranio Michele. E Caterina era bravissima a scuola, ha preso il massimo dei voti anche allo scientifico. E evidentemente l'ha portata per lo studio. Quegli studi lì sono difficili. Anche mio cugino è per esempio ingegnere, lo stesso. Quello lì stava lavorando al centro meccanografico del Banco di Sardegna. Stava lavorando. Perché è ingegnere, Carletto. Non so se adesso sia in pensione, perché già era più grande di me, quindi dovrebbe essere in pensione. E Caterina è ingegneria elettronica, se è un cranio, ti sto dicendo, è bravissimo. E anche Lello, Lello per esempio, il figlio di Concetta, è perito elettrotecnico. Quello lì se va, si deve studiare solo le normative e gli danno la patente ridendo, perché tutto l'altro lo sa. Prima la davano direttamente senza fare esame la patente, quando tu avevi questi, quando eri ferito, quando avevi fatto, per dire, radio nei militari, eccetera eccetera. Ma adesso l'hanno cambiata la normativa, devi, devi sapere tutte le norme, capito? I miei giorni erano dall'esame di elettronica, però le normative le devi sapere, ma la sorte, ti fanno quell'esame lì, adesso gratis non te ne danno più, quello sei pure ingegneri, elettronico, non ne ha più di nulla, devi sapere le normative. Prima lo so, prima ce la davano così la patente. Mi sembra più che giusto andata lì, perché le normative non c'entrano nulla con l'elettronica, le normative sono delle cose da sapere, oltre quello che sa. Però anzi lì sono severissimi, se sbagli le normative sei buttato in partenza, perché tutte le leggi riguardanti le telecomunicazioni le devi sapere, tu puoi essere ingegnere, però se non sai quelle leggi lì non te ne danno patente, assolutamente. Vabbè, io volevo fare, vabbè, dopo fare una prova per vedere se esco, perché secondo me non sta uscendo la radio, perché se non funziona il rosmetro come tu premi non esce la radio, forse, boh, non lo so perché, perché il rosmetro così funziona benissimo. Infatti se la radio non gli dà l'impulso non funziona il rosmetro, capito? Se non esce la radio, e appunto lo so. Ti ho fatto arrivare un toroide, mi ho fatto arrivare perché mi devo fare un balun, voglio fare un'antenna a canale aperto, però adesso mi faccio una long wire, per il momento mi faccio ricevere. Scappa. Ti hai fatto arrivare l'antenna, ti arriva? No, mi faccio una long wire, mi faccio, rimetto quel balun, così diventa multibanda. Puoi fare un'antenna a canale fresca con quello, con quel balun. Ci metti un accordatore e sotto accordano tutte le bande. È che è lunga, è 10 metri di filo ci vogliono. Ma tu non ce l'avevi già fatta in campagna, mi pare. Sì, ma qua come faccio a piazzarla? Mondiali Qatar 2022. Cata, ma non sai quanti metri sono per braccio? Senza contare la scaletta, sono 13 metri per braccio, più c'è la scaletta. È un casino lì. E dopo quel tetto lì, adesso il tempo che trova sempre a piazzare roba, sono tetti già vecchi. Qua è un macello. Come faccio quell'antenna multibanda verticale? Mi faccio, ne tolgo questa e piazzo quella là. E così parlo da tutte le parti. E poi ti fa anche la 27 questa. Sì, certo che la fa. Gli metto quel toroide e gli faccio la... Ho già comprato il filo, l'ho già fatto il balum. Lo devo solo piazzare e mettergli questi 10 metri di filo. Tanto la provo qua in basso adesso. E poi la metterò su una canna da pesca da 10 metri. Perché quella che c'hai dovrebbe essere accordata anche 10 metri, la mia è accordata 10 metri, non mi dà abbastanza male. Sì, fa 10, 11 e 12 metri questa che ho adesso, però 20, 40 non li fa, capito? Beh, quello ci vuole anche una pazza. E invece con quella fai tutto. E vabbè, ma non è performante nessuna banda, cioè fa tutto, però non è specifica. Ehi, cosa non è performante? Se la usava nel furgone Vittorio. Vabbè. Avvidilla si è performante, già va. E Vittorio si è paralizzato perché il furgone non ne ha più e c'aveva la stazione lì e non so se sta ancora trasmettendo da casa, perché Antenna mi sa che a casa non ne ha, trasmetteva sempre dal furgone, io lo trovavo sempre a San Francesco, al Quadrato, a Usi, da tutte le parti. Vedevi prima l'antenna e poi a lui, un'antenna più alta di un palo, via. Quell'antenna che devo fare io? Già ce l'ho la multibanda per la macchina, però quella là è diversa, però se me la penso sul tetto non la posso usare in me, in coso, ma mi farò qualche dipolo e un altro palo di quelli mi comprerò e mi faccio qualche dipolo per fare QRP in bassa potenza, dai. Comunque dice che questa antenna ce l'aveva, Marcolino ce l'ha questa antenna che c'è, e dice che funziona benissimo, ha detto Marcolino. Oh, e allora va bene, dai. Marco Condo non l'ho più sentito. Perché evidentemente è impegnato, non ne ha voglia magari, e quello è il discorso. No, sta impegnando molto la madre, capito, che non sta bene, quindi deve stare appresso. Infatti, sarà impegnato proprio con la mamma lui, io lo so. Non sta bene la mamma, è un macello quando è così. Cazzo, sto cercando quei PL femmina da mettere nella cosa, nella... uno l'ho trovato. Ma di quelli per la piastra, insomma, o quelli volanti? Per mettere nella scatola di derivazione, dove devo mettere quel toruide. E mi pare io qualcuno ce l'ho. E di cosa? Di quei PL femmina? Praticamente sono quelli che si attaccano, per intenderci, quelli che ci sono dietro gli alimentatori, eccetera, eccetera. No, non ce n'è dietro gli alimentatori. PL femmina possono esserci dietro il baracchino. E per attaccare l'antenna. Non volevo dire... dietro l'alimentatore, volevo dire dietro il loro metto. Ho capito. Si ha detto alimentatore. E io sono due ancora giurato a calendare, i dolori di vaggio, non ho comprato più nulla. Sì, ce ne ho qualcuno forse io da tanto. Il toroide, ragazza, l'ho pagato un sacco di soldi, poi ha giubilato due matasse di virus. Cazzo, c'ho questo microfono, se non schiaccio bene mi sganta. Mettili un po' di spray per contatto. No, adesso già la tiene, se tengo il dito già c'è la portante fissa mia, e io che sono abituato a schiacciare l'altro. Ah, c'è, però non rimane più, non capisco il perché. Vedi, questa c'è, adesso l'ho schiacciata, per staccarla devo schiacciare l'altro tasto, così. Ho capito, come c'è nell'MC60? No, nell'MC60 funziona lo stesso tasto della portante fissa, capito? C'è quella normale, il PTT normale e poi quella fissa. Invece questo, quando schiacci il lock praticamente, per toglierlo devi schiacciare il PTT, torna. È più comodo perché sei a mani libere, capito? Una volta che tu metti il coso, sei a mani libere, puoi parlare, fare le cose che devi fare e via, ti puoi anche allontanare. È la comodità quel lock. Ma io te l'ho detto, questo microfono qua funzionava, poi l'ho smontato per metterli lo spray per contatti, l'ho ripiazzato e non funzionava più. Adesso che sia lo spray che lo faccia scivolare e non lo faccia agganciare bene. Può darsi sì. Ecco qua. Non lo so, non l'ha detto. Ha soltanto provato a convincere. Ma la Giussi, ma come si era abbiazzato lì? Non era molto chiaro che non lo facesse andava bene, ci vuole uno di quelli da pannello, ho capito. Io se passa a casa te lo do, non c'è problema, ma a muovermi, Il problema da me è che non posso prendere la macchina, se prendo la macchina è un macello già. Un macello enorme, perché poi non trovi il parcheggio. Ieri notte quando sono tornato dalla lezione non c'era parcheggio neanche in via Sorso, da nessuna parte. Ho dovuto aspettare lì finché non si è liberato un posto e ce l'ho schiaffata lì la macchina. Ma dimmi tu che devo temere a prendere la macchina. Ma già vado al mercato e vedo a vedere se riesco, gli dico che sono invalido oppure a vedere se mi abbassano un po' il prezzo e me la metto sotto il mercato, ma almeno non ho problemi di parcheggio. Infatti risolvilo, non puoi stare segregato perché cazzo non puoi prendere la macchina, non l'avrei mai fatto io. Risolvilo il problema, ci ti giochi 60 euro al mese di rabbia a luci, cosa devi fare? Purtroppo lì è così, io a volte lo trovo in via Sorso, quando venivo a casa tua lo trovavo in via Sorso, all'inizio o anche alla fine a volte, dipende dalle volte, però l'ho sempre trovato lì via Sorso. Ma di notte non c'era un buco per mettere un chiodo, nulla! Neanche dove c'è Agri, l'oculista, quello che fa gli occhiali, neanche lì ce n'era. Ho dovuto girare tre volte il coso dell'isolato, alla fine meno male che uno se n'è andato e ha trovato il parcheggio, a Fangualla. Poi parcheggiano male, parcheggiano in modo che non ci sia un'altra macchina, la mettono in mezzo e prendono un parcheggio praticamente, te ne prendono. E lo fanno per non toccargli la macchina, perché se è troppo attaccato oppure toccano la macchina e si trova la macchina toccata, allora la mettono al centro di modo che c'è lo spazio per l'una e per l'altro per manovrare. Ma così cazzo non trovi parcheggio mai qua, è un macello. Poi i dispetti che ti fanno, me ne hanno stracciato l'antenna VHF che avevo sul davanti nel tettuccio, dove c'era l'antenna della 27, no? La stracciatura hanno fatto, mi hanno rotto l'attacco pure e non puoi mettere manco lo stilo lì. Bisogna buscare un attacco nuovo con lo stilo. E mi pare che Fusaro rivenda quegli attacchi lì, quelli a farfalla solo. No, tutta l'antenna ti vende Fusaro. Sono andato per la base magnetica, lo sai quanto voleva per la base magnetica, più piccola di quella che avevo io, che ho io in macchina, con l'antenna della 27. E lo sai quanto la vuole? Se te lo dico non ci credi. Più piccola di quella che ho io in macchina, senza né cavo né attacco a pelle, perché me la dovevo costruire io. Pronte, non ne aveva. 22 euro. 45 euro la voleva. Quello è diventato pazzo, vuole chiudere. Ma tu devi parlare con Antonello, con Marzia, perché il marito di Marzia è un po' caruccio. No, proprio Antonello, 45 euro. Ma la base da 22? No, piccolina era. Era più piccola di quella che ho io. Io ce l'ho grande. Però c'è la base della 27. Capito? Se io me la tolgo da lì, poi non c'ho l'antenna per 27. Ho capito. Perché quella multibanda che ho io non è come quelle che hanno il mollone, capito? quella che lui è rigida, è attacco a PL ed è rigida, quindi la puoi usare solo ed esclusivamente da fermo. E se una te la metti nel tettuccio dove c'avevi l'altra fissa e l'altra te la puoi mettere, te la puoi mettere con la base magnetica. Che cosa? Fissa non la puoi mettere quella multibanda. Ah, quella lì è quella che si deve togliere, rimpiazzare. Avvitatura e APL. Non ha né molone né nulla. Stavo cercando un'antenna di quelle della Enco, come quella che c'ha Marco, no? Così puoi usarla anche volendo, anche camminando, no? Con la base magnetica. Invece questa è pericolosa, se tocchi da qualche parte la rompi, è in tre pezzi mia addirittura, è un bel lunga. No, quella lì se l'antenna da usare sì in macchina, ma da fermo, capito? Vai a usilo, per dire, te la piazzi, poi prima di andartene te la tutti. Così bisogna usarla e basta. Anche Vittorio faceva così. Poi ha diversi pezzi, aveva, non so quanto, per diverse frequenze, aveva diversi attacchi. Avrà avuto l'antenna della Echo, ma non si trova, l'hanno esaurita maledizione, se no un paio di stili me li avrei comprati, una 40, una 20 e una 10, così l'avrei potuto usare anche per la 27. Se trovo quell'antenna lì, l'antenna della 27, me la toglievo. Ma tanto tu quando è che vai? Quando vai a fare lezione giù a, a coso? All'Otenoso? Il venerdì. Che oggi già sabato. Se no, quando prima di andare passavi a casa e io te lo davo, non c'era problema. Sì, vabbè, dai, già. Tu mettilo da parte. Anzi, se ce l'hai quello col dado è meglio. Quello che avviti col dado, mi. Non lo so quello, Natalia. Non te lo so, non me lo ricordo com'è. Forse con i viti si avvita. Si avvita con due viti laterali, mi pare. No, c'è quello che c'ha quattro viti. E poi c'è quello che ha, che si avvita col dado centrale. Metti il dado e via. Allora, Natalia, quelli sono pezzi che io ho recuperato da un lineare, da pezzi da parecchi che si sono rotti e vi ho preso i pezzi, capito? Non me lo ricordo adesso, devo controllare e anche cercarli, dai. Sì, quando ce l'hai me lo dici. Ma non vivo nulla, a cercarli so già dove cercarli, io prendo la scatola e li trovo subito, non è che sia lì un problema. Il problema è che tu non ti puoi muovere, io cazzo non si muove, sta segregato in casa perché non puoi toccare la macchina, e quando vai a fare la lezione non la tocchi. Solo che quando tu torni le persone sono già tutte tornate perché è tardi, quindi non c'è più baita. Infatti non ne trovi il parcheggio, qua è un macello praticamente a trovare il parcheggio. Sì. Ma dimmi tu, adesso vado al mercato qualche giorno e sono libero di mattina e mi faccio l'abbonamento lì, almeno la metto lì la macchina e via. E ho finito di soffrire. Ma infatti non devi stare, non devi stare a casa, se devi uscire devi farti un giro, devi, sempre la paura di toccare la macchina perché non trovi parcheggio, stiamo scherzando, non esiste. Io invece l'abbonamento l'avrei fatto, se trovavo parcheggio ce l'avrei messa lì e avrei pagato la giornata, perché se poi tu trovi parcheggio così ti risparmi i soldi. Una volta che fai l'abbonamento ogni mese devi sganciare. Quello è, capito? Magari avanti l'abiti fa l'abbonamento e c'ha più parcheggio. Vabbè, e l'altro giorno non mi ho lasciato la luce interna della macchina. Sono andato a prendere la gatta e non partiva. La batteria è completamente scarica, nuova, dimmi tu. Meno male che c'ho l'avviatore io. Gli ho attaccato l'avviatore, un giro di chiave, gatta, vedi, dopo c'è morto. Meglio di ieri, di quelli russi pesanti, gas più grande di quello di Franco, la più bagaglio quasi 200 euro, però è un mostro di aviatore, cazzo, anche se dice la macchina della base bassi subito, capito? Bellissimo. Ma io non ne ho più comprato, ne ho avuto due di aviatori e praticamente la batteria parte subito, quella dell'aviatore e la voce di un rapido, cosa dire mai? Non funzionava più. Cosa te ne fai? Perché lo usi, no? Molto di morte di ogni pappa, questo avviatore, e quando magari lo devi usare scarichi. Perché una volta che l'hai usato lo devi ricaricare, capito? Perché sennò è logico che parte la batteria, questo è il professionale Emmy. Cazzo, ho usato un bisa. E dove l'hai preso? Da Bricomen l'ho preso, è professionale, avevo pagato quasi 200 euro. Ma chi c'è Manaviru, ti segna canta carricava e tutto. Anche il mio c'aveva compressore, luce, ricarica, tutto quanto. C'aveva anche il compressore. No, questo serve solo per avviare la macchina e poi lo puoi mettere in terra. Perché ha i cavi lunghi, c'ha, e grossi, ma tu lo devi vedere come in te. Un mostro è. Quello già è utile, perché se ti si ferma la macchina che non c'ha batteria, l'avviatore è una delle cose più utili che c'è, però ti ripeto, ne ho avuto due e tutti e due lasciavo in macchina pronti per usare quando mi serviva e magari cavo, sì, lo caricavo, ma stare tanto tempo senza usarlo si scarica lo stesso. Io adesso lo carico, torna, così è sempre pronto all'uso. Capito? Se no ti si rompe la batteria, ti si rompe la batteria lì dentro e ce lo devi buttare. Deve essere mantenuto carico. Qui c'è un interruttore per disinserirlo, capito? Il mio non ha né compressore né nulla, serve solo ed esclusivamente per caricare, per far partire la macchina, e buh. È solo per quello scopo. Ma il mio c'aveva anche il compressore e anche la luce, c'aveva la pila incorporata, lo potevi usare anche come pila. Guarda lì, ti lascio due secondi, devo andare in mano. Sì, vai, vai, già sono qui. Eccomi qua. Siamo qui. Mi ha ricordato una cosa. Che cosa già? Che Enrico praticamente non piace anche fare la nostra, invitava la mamma d'Antonio, perché aveva il magazzino dell'olio in via Pulizzetta, no? E quando arrivava la gente dice che si metteva con il braccio per farsi notare, no? Si muoveva il braccio e diceva siamo qui. E si faceva di attigarsi. Dice sono andato a prendere l'olio e lei si è messa col braccio muovendo, sono qui. E ormai che andavano a comprare le ruzzughe. Mica l'olio di Antonio era un bel buono, anche il vino, che poco ti imbriagava. Te credo. Abbiamo ricordato le vendemmie che facevamo insieme, una macinata di coso, di uva a Natale. Con quello c'era il vascone con la manovella, c'era un cantone in mano di ghisci bianchi, ti mettevi sul cantone e giravi la manovella a mano. Te credo. Ce l'avevamo anche noi quell'affare lì per fare il vino. Capito? Cazzo, ne vedi apparecchi radioamatoriali qua. E dove Natali? Ho messo, allora. Non si sa un di cacchio che giù. Tutto subito, spedizione e pagamento online. Come si chiama? Tutto subito. Ehi. Io sto cercando 140, ma messo bene. Ne ha uno Luca che gli è arrivato ieri o martedì, mi deve far sapere se funziona bene tutto. Ed è proprio un 140. scappa. Siamo per pigliare. No, io per il momento, finché non prendo quel pezzo di carta, non piglio nulla. No, mamma. Adesso vediamo. Non è che abbia un'urgenza, devo appurare bene le cose. E scappa. Tanto è per ascoltarmi, più che altro mi interessa per ascoltarmi. Infatti. Perché quando non c'è gente qua, almeno me ne vado là, capito? Ma per ascoltare, gatta, no, se non hai antenna, no, così nudami. Più antenni, vivoni. È quello, perché io ho provato con quelli della 27. In 10 metri già ascolto, perché va anche lì questa antenna. Ma tu vai in 20, in 40, Allora, non so questa di antenna, ma la Marta ormai mi faceva sentire tutto, 40 metri, 20 metri, tutto ascoltato. Ma cosa si chiama con quella che hai tu? Ascolti, cosa vuoi ti dire? No, no, questa qui non l'ho mai usata, adesso parlo della Marta V5 che c'avevo, quella lì mi faceva ascoltare tutto. I 40 metri li ascoltava anche con segnaloni forti, 9-20, 9, tutti segnali forti. Così già è bello già. Con un'antenna sola ascolti tutto. Però non lo so se questa qua è la stessa cosa, capito? Questa è una bella antenna lo stesso, è come la Mantova. Ehi, allora dovresti ascoltare anche con quella. Si è fatta meglio questa della Mantova, perché la parte sottostante, quella che è nella Mantova, il piattino dove c'è quello attaccato, con la piastra lì, c'è tutto in acciaio quella parte lì. Quant'è che è alta quella, l'antenna? Ma la Mantova è uguale di metratura. E allora, dovresti ascoltare anche con quella. Mi ballo 9-1, chi ti ha già fatto i santuruni? 65 euro, meglio, già me lo faccio io, anzi, laggiù ha fatto, lo devo solo piazzare. Il ballo 65 euro? Ehi. Ma Gugaro mi pare. Te li fanno pagare, ma la sorte. Io mi ho comprato il toroide e me l'ho già fatto. Ho preso il cavo per farlo e più il cavo per farmi l'antenna. E vabbè, chi fa la sefa per te, detto e fatto. Io al grido. Se non ho fatto il dipolo per il 20, adesso ho le cariche, mi ho fatto le cariche, ho i tubi per fare le cariche, e quindi me lo faccio io le cariche per fare i 40 metri. Ho capito, fai bene. E allora, li ho fatti sempre i dipoli. E non me lo faccio adesso, chiavolo. Già lo so, te ne hai sempre fatti, tu li facevi con Antonio Monteoro, eccetera, me lo ricordo. Vai. Ci sono cose che io mi ricordo, poi Antonio certe cose non se le ricordava, poi gli sono venute a mente dopo che le ho ricordate io, ma dice non mi ricordo, poi gli ho detto guarda che allora si ricordava. Molte cose uno se le dimentica, io già me le ricordo. Ma poi anche se è l'Alzheimer ti ricordi le cose lontane, quelle per dire ci metti un attimo, devi prendere una cosa, vuoi aprire lo sportello e non ti ricordi cosa devi prendere, succede così. Gatta, guardami, questo qui è vecchio pure, è l'857 100 watt, lo sai quanto lo voglio? Io l'ho venduto 500 euro ed era nuovo il mio, l'avevo pagato 7,50, adesso costa 827 euro, le mani dovevo tagliare invece di venderlo, quello lì sì era un apparecchio. E andava bene il 27, ma stai sicuro intubato dalla macchina, come che c'avevo il lineare sempre attaccato. E in macchina lo porto? Ehi, c'avevo l'unità centrale. Che ci sono? Ehi, vai con c'è. Diavolo. Lascia la luce. Ehi, vai, però, sempre andetto. Oh, vatti rapidi. Con c'è, vai, se devi andare, non fargli a rompermi le scatole. Uia. Cazzo, una scena. Grazie, ti siamo caricati di canzoni. È vero, mi si era chiusa a mondo, bongo. Dai, già è brava Concetta, poverina. È un po' lo corruica. Qui l'apparecchio che ho io. No, questo no, questo è il samurai. Samurai. Non lo so se ne vale la pena, perché c'è sempre poca gente, buff. Io ho un bel apparecchiature qua che ce l'ho in più, capito? Ne ho un bel. Infatti, ne hai truppi, quando ne hai truppi poi, chi te l'ha fatto fare? Io ne ho un usuro. Io ne ho uno. 1, 2, 3, 4, 5. Dimmi tu. E tanto li puoi trattare uno alla voce. Ma infatti li faccio girare un po' per uno, poco fa ci avevo, per dire, il coso, l'index, e adesso lo vorrei riattaccare per vedere se funziona quella situazione. Ho sbagliato qualche cosa, ma non penso, perché cade già lo usare. Ho toccato qualche cosa, magari ho fatto uno scatto diverso. Vedi, mi ha suonato, e sono dovuto andare a aprirla. Grazie, se tu ti avevi un innesco. Perché c'è una prova di attaccata, Natale. Dammi 5 minuti che cambio la situazione. Ehi. Natale, sì, sì. Ehi. Non mi sentivi? No. Non stavo uscendo, dai. Non sto uscendo l'apparecchio, non è la colpa del coso, non è la colpa del rosbo, te non usciva l'apparecchio. Ah, così è. Ma ci deve essere qualche filo staccato al microfono, poi lo controllo. Se non uscivi, sì. Cazzo, stavo modulando fino a quando è ieri. Stavo modulando con quell'apparecchio, poi andava bene. E adesso non esce, bro. Non esce di radio, boh. Eppure quando io premo si tix, si scrive, capito, dall'apparecchio. Però non esce. Ma ci sarà il filo della radio staccato. Magari mette la portante ma non esce di radio. Ma infatti, perché tix nella radio lo scrive. Una cappa. Boh, e vabbè. Quindi è bello di averne tante cose, che non funziona una e va lassa. Lo so. Adesso basta che non sia come ho cambiato la batteria del microfono. Può darsi. Ok, non lo alimenti. Guarda che non ci sia il filo della batteria staccato. E tutto, ma sì, adesso li controllo anche la batteria, non c'è che sia scaduta. Ho il filo della batteria che alimenta la batteria che si è attaccata, giusto, capito? No, perché se c'è della luce rossa, non sta lì. Allora già è alimentato. Il lui è costruito a sparire, non cambia niente. Guarda un po'. La luce si accende. Ha fatto anche un innesco adesso. Lo so che l'ha fatto perché c'era un altro apparecchio acceso, perché mi sono assicurato che quello che ti stavo dicendo era giusto. Infatti è giusto. La luce si accende del microfono. Ma che se il microfono sta uscendo, quindi se si accende la luce esce. No, bisogna vedere se arrivi l'usiniere alla capsula. Magari è il filo staccato dalla radio e non esce di radio solo. Provalo a vedere qua, a vedere se ti sento. No, ho già provato, ti ho chiamato poco fa, 3 ore chiamato, ti ho detto non c'è l'attalino. Ti ho chiamato quando ti ho detto che mi stavo spostando per farlo. Ti ho chiamato un po' di volte. Qua scrive tix, lo scrive, quando premo la portante scrive tix e si illumina anche la lucetta rossa che c'è nel microfono, capito? Beh. Boh, vabbè, non usarci, poi controlliamo la batteria, magari proprio quella. Con Royce bene mi senti? Sì, sì, ti sento benissimo. Questo è Royce. Uno dei re di Baracchini. Ho fatto mari e monti per cercarlo, adesso un po' mi ha stufato, lo sai, è un bel bello. Lo so, lui è bello. Ho fatto mari e monti, Natale, ho pagato 230 euro più le spese di spedizione, 250 euro in tutto. Però è immacolato, non va un graffio, tutto tenuto bene. Questo qui era un collezionista, ce l'aveva diversi di apparecchi di questo genere. li stava tutti prendendo perché è diventato radioamatore, si stava facendo un po' di studi per comprare apparecchiatura radioamatoriale, doveva farsi anche il posto, quindi li stava vendendo per quello, se non era le vetrine, erano, aveva lavato con tutto, addirittura c'è anche il manuale, tutto. Beh, servono soldi quando devi prendere gli apparecchi. Che orgoglio. E poi se li prendi nuovi quelli radioamatoriali, se li prendi nuovi costa una barca di dinà. Infatti. Almeno che trovi qualche occasione a seconda mano, capito? Di gente che conosci. Ma devono essere, come dire, garantiti, se no non avevo biliardo. Trattoria, a mio avviso questi apparecchi vanno presi dalle ditte proprio che li vendono, di modo che ti danno la garanzia e se c'è qualche problema l'apparecchio glielo rispedisci e gli dici aggiustami questo perché non va bene, ecco, e sei in garanzia, capito? Infatti, vogliono garantiti. Io 140, quello che ho preso dal Tecnocomunicazione, l'ho pagato 250 euro ed era nuovo di zecca, me l'ha tutto revisionato, controllato e mi ha detto guarda non ci aveva niente, io non ho toccato nulla perché era perfetto così. L'ho controllato tutto con le apparecchiature, dice tutto in frequenza, tutto a posto. E l'ho pagato 250, non ci aveva un grafo, ho fatto male che tu l'ho venduto, sono stato scemo. Infatti. Direi indurdo e io me ne sono pentito dell'857 come quello di Marco raga, c'avevo il frontalino davanti perché avevo i cavi per poter attaccare sia il microfono che il frontalino, no? Il frontalino davanti e l'unità centrale è attaccata dietro il sedile di dietro, nello schienale l'avevo attaccato per non prendere i colpi. Già me lo ricordo, adesso non ci stavo pensando, io stavo pensando che l'857 fosse un apparecchio, quello della IAISO, quello che è praticamente base, capito? Ho capito qual era la taglia, mi pare che era un quadribanda, una cosa del genere. E faceva HF 50 MHz e più faceva 144 e 430. Sì, già me lo ricordo la taglia, già me lo ricordo qual era. E quelli vanno bene anche. Quello adesso ti sarebbe servito, vedi? Lo so. Quello lì già era bello, 100 watt aveva, una bella era. Il mio andava bene da tutte le parti, anche 27. Vabbè. Io stavo pensando all'857, quello è praticamente base, non è base l'857, quello non c'è nulla base mi pare. E tu stai dicendo, non era l'857, aspetta, un'altra sigla c'ha, simile ma non è quella. Già ho capito, lo IAISO stai dicendo, anche quello mio era IAISO, l'857 della IAISO ce l'avevamo io, Marco, cazzo, ma il mio andava bene da tutte le parti, non l'avevo toccato assolutamente, solo il menù gli avevo messo a posto perché me l'aveva detto Marco come metterlo, e andava bene da tutte le parti, in 27, da tutte le parti andava. Già me lo ricordo, sì, che andava bene. E poi quello lì anche facile da camuffare. Quello c'avevo il frontalino io, davanti, e dietro